America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. We will continue the United States to have a very close and special relationship with Great Britain. John Kerry, segretario di Stato americano, che dice continueremo a avere una relazione molto stretta con la Gran Bretagna. Quello che cambia è la sua relazione con l'Europa. Lo stesso ha detto Barack Obama, era a Palo Alto in California. Dice quello che è accaduto in Gran Bretagna fa parte delle sfide della globalizzazione, cambia la sua relazione con l'Europa, ma i rapporti con gli Stati Uniti rimarranno gli stessi. Beh, certo, ci credo, restano gli stessi, è ovvio. Gran Bretagna e Stati Uniti dialogano, però la Gran Bretagna era la porta d'accesso per l'Europa, per gli Stati Uniti d'America, e dunque quella porta si chiude, non c'è più quell'interlocutore privilegiato attraverso il quale si potevano influenzare certe scelte politiche europee. Non solo, è il primo passo, questo l'ho anticipato anche in altre occasioni parlando qui ai microfoni di America 24, ma cambia un po' l'assetto multilaterale per gli Stati Uniti. E tant'è vero che proprio ieri l'apertura di prima pagina del New York Times è questa: Brexit rattles the world's post-war order, cioè c'è uno sconquasso, dice il New York Times, per via di Brexit, dell'ordine mondiale che è stato costruito dopo la Seconda Guerra Mondiale, un ordine mondiale costruito dagli Stati Uniti. Ecco, secondo me questo è molto vero. Dovremo vedere come si metteranno naturalmente le cose, se ci sarà un effetto domino, però anche dal punto di vista politico questa vittoria di Brexit rafforza Donald Trump. Di questo ne abbiamo già parlato, abbiamo parlato anche dei mercati. Stamattina, tra l'altro, abbiamo visto aperture miste in Europa, ma comunque non ancora rassicuranti. La copertina di oggi, tuttavia, la voglio dedicare a un altro tema, sempre in nome del multilateralismo, che deve restare, perché il mondo globale deve essere governato e deve essere governato attraverso le istituzioni multilaterali. Una di queste, la più importante, è quella delle Nazioni Unite. Ebbene, ci sarà domani mattina al Palazzo di Vetro un voto chiave che ci riguarda. Sentiamo. So the fact is now that our reputation is at stake. And I hope that this... Ecco, avete sentito, il ministro degli esteri italiano Gentiloni è stato più volte in America, a New York, all'ONU, per sostenere la candidatura italiana al seggio a rotazione nel Consiglio di sicurezza dell'ONU, su cui si voterà domani mattina. E dunque sarà un voto chiave per noi, non sarà un voto facile, perché i nostri concorrenti sono Svezia e Olanda, e ciascuno ha un punto di forza. L'Olanda, per esempio, l'Olanda ha proseguito in piani per la cooperazione, elargendo gran quantità di denaro a paesi in via di sviluppo, a paesi emergenti, e come sappiamo all'ONU ogni voto vale uno, quindi se una serie di paesi hanno avuto aiuti che dall'Italia non hanno più ottenuto, perché l'Italia a un certo punto ha cambiato la struttura della cooperazione, magari potranno votare per l'Olanda. La Svezia è molto forte, tra l'altro un sottosegretario, il numero due delle Nazioni Unite, è svedese, e dunque anche se non dovrebbe per conflitto di interesse mettere bocca su questa cosa, sappiamo che ha alzato il telefono più volte per dire agli ambasciatori, che poi voteranno loro perché il voto è segreto e quindi non si sa mai come andrà a finire, per ricordare a questi ambasciatori che la Svezia è un grande paese. Noi abbiamo lavorato molto, l'ambasciatore Sebastiano Cardi ha organizzato una macchina da guerra, diciamo, per portare l'Italia al seggio, ci lavora da oltre due anni, però vi dicevo, l'incertezza alla fine prevale, perché è una battaglia a 3-2 seggi, e dunque domani sapremo se avremo questo seggio nel contesto del Consiglio di sicurezza dell'ONU, che per noi sarà molto importante, perché ci porta a contribuire alla gestione di quest'ordine globale che dopo Brexit è sicuramente più fragile. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Devo dire, l'incertezza prevale, crediamo sempre di capire che cosa sta capitando, ci accorgiamo che i sondaggi sono sballati, la realtà ci sorprende in continuazione. Crediamo di sapere, in realtà non sappiamo un bel nulla. Questa è la verità che abbiamo appreso con Brexit, forse la conoscevamo già prima, ma per questo vi propongo Blondie. Blondie con I Know, But I Don't Know. Lo so, ma non lo so. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!